pesce portato, un'erba nel deserto, una boa che galleggia in mare aperto. Quando cala la sera mi intristisco, ma quando il sole si abbassa io rinasco. Libertà di andare, libertà di amare, voglia di volare, voglia di capire, voglia di naufragare nei tuoi grandi occhi blu, voglia di scoprire come sei fatta tu. Se vuoi, e amami, amami se vuoi. Sono un coglione, un cavallo impazzito, un gatto intimidito. Mi rimetto in gioco, spesso troppo poco, corro avanti e indietro e non mi muovo di un metro. Vivo nel presente, a volte sono assente, guardo molto lontano, mi perdo nella mia mano, cerco il tuo sorriso dentro il quale mi infilo, poi mi trovi in giro in un paese straniero. Sono qui, svegliami se vuoi, e poi amami, amami se puoi. Voglia di volare, voglia di capire, voglia di naufragare nei tuoi grandi occhi blu, voglia di scoprire come sei fatta tu. Ma poi dai, svegliami se vuoi, amami, amami se puoi.